Remake. Hello everybody, you're very welcome to questa edizione di Remake. Buona domenica a tutti, my name is Virgo Cavana e on controls abbiamo Robertino Roberto Bottone e saremo insieme fino alle ore 18 facendo sentire vecchi brani con un tocco moderno. Poi, e che modo che iniziamo oggi? Allora iniziamo con il più grande gruppo della storia della musica. Sto parlando dai Beatles, la voce di Paul McCartney, here's Eleanor Rigby. Del 66 sono i Beatles and here's Ray Charles. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. But do they all come from? Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people. Where do they all come from? He turned to me and he said, wiping the dirt from his hands and he walked from the grave. No one was saved and he said, tell me all the Remake. Avete sentito la versione di Adina Howard's Freak Like Me, che viene dal suo debut album Do You Wanna Ride del 1975, scusate. E questo l'avete sentito prima della pubblicità. Però siamo rientrati col cover Freak Like Me da True Faith and Dub Conspiracy insieme. Molto bello questo, che fa venire la voglia di ballare. Allora il nostro SMS box per voi che siete a casa o in macchina o dove siete: 348-661-9461. And now un classico dagli anni 80, quando George Michael era ancora insieme con Andrew Ridgely. It's Wham and Freedom. Questo all'epoca era un semplice canzone dell'amore, io voglio la libertà, eccetera. Una canzone pop così divertente, commerciale. Però poi quando George Michael è andato come solista, ha deciso che voleva essere un po' più maturo, e adesso il suo Freedom, nuova versione che ha registrato, parla di essere libera del constraints del record company, eccetera, ed essere free a fare quello che vuoi fare. Here's George Michael with Freedom 90 on Remake. Yeah, yeah, that's Freedom 90 from George Michael, che è stato un grande coso liberatore per lui. E poi Robbie Williams, che faceva parte di Take That, ha lasciato sul gruppo, è stato un grande fan di George Michael sempre e ha detto, ok, questa canzone parla proprio della mia situazione pure, e quindi sarà una tra le mie prime singole soliste del 96, Robbie Williams. Take the Money and Run, gran bel brano, questo viene dal loro album Crown Royal, pubblicato nel 1999, e questo, come sappiamo, è un gran bel cover di un brano fatto dai Steve Miller Band, che abbiamo sentito all'apertura di questo medley. Fly Like an Eagle è il nome dell'album, nel 1976, e quindi il gruppo di Eagles hanno detto, ah, sta parlando con noi, e loro hanno fatto pure un versione. E dopo di Eagles abbiamo sentito Julian Austin, versione ballata, quella funky Medina, e per concludere Run DMC, proprio un bel medley. Voglio ringraziare i nostri tecnici Enzo e Aurelio che ci hanno fatto questo, e c'è un altro medley che arriverà intorno alle 17:30, quindi aspettiamo questo. Allora ragazzi, il grande pop degli anni 80, un grande successo per il Culture Club del 1982, e from the album Kissing to be Clever, it's Do You Really Want to Hurt Me. Remake. And tasseletta. Rip, rip, make. Rip, rip, make. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Rip, rip, make. In tasseletta. Rip, rip, make. Rip, rip, make. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Rip, rip, make. Tasseletta. When the time is right in the heat of the night, right, right. When you catch the buzz and you're feeling the hot ride. When you stand in the line and your credit decline, yeah. Wondering when she gonna find life again. Making runs, stack of ones. Working class citizen, chosen one. No Babylon touch for the first time like a virgin. Rap origin, blast out the Eden. Love the way this fake skin, wrap around her bare skin. Sex on the beach, sipping on juice and gin. Revenge just to sin again. It's that yin yang news bulletin. Stuck with me through thick and thin. Like I imagine on my side like a Gatlin. Getting rowdy with my crew down in Brooklyn. Drinking piss and not to mention with my hooligan. We'll find them cats like Benjamin Franklin. Shorty perfect 12 on the scale 1 to 10. Whatever, whenever, you can see me like when. So baby, what you wanna do? When you're feeling horny and you need a cheap thrill. Yeah. So baby, what you wanna do? Make love on the beach and grab all the things that seem out of my reach. I never had that, so they ain't shit to lose. I refuse to snooze in these ill street blues. It's a full-time thing, just trying to maintain. Even little city girls go insane. Sometimes I wish I could press rewind. When the life I live don't seem to be mine. If I could fly away, freeze, be long gone. You couldn't pin me down with your zoom lens on. I stay maxed out, blacked out, stacked out. Cats out of order, y'all get smacked out. Nobody moves and nobody gets hurt. Nobody interferes when I'm doing my work. Pulling my skirt, that's a full court violation. Y'all better get ready for the full annihilation. When you think you got a shorty, boy, she's sleeping with your best friend. Yeah, so baby, yeah, what you wanna do? You better get in bed, bring your neck into the dips, yeah. So baby, what you wanna do? What you wanna do? What you wanna do? Yo, I'm gonna be in the back of the club, scrubber doubling. Why these fake cats be champlin' bubbling? Who you loving, who you hugging, and your time is struggling. 2-3 job, it's hard to keep juggling. Monopoly and hard times, all I got is hard rhymes. When I make it out, baby, I'ma keep you in mind. Can't stop the shine, can't claim what's mine. Coming up, yeah, I'm in my prime. Ready to get this party started. Cause it's like with diamonds, yeah, I'm cold hearted. A bloodhound, making you crunk some fan. What now, you done effed up now, but what? Look around, if anyone acts, I say it's crime related. Them cats forgot to learn the 10 crack commandment. Passing judgment when you came from the basement. So if you say we hot, it's just an understatement. You in love with your man, but y'all can't get along. What you wanna do? Questo è da Pras Michel, che ha preso un pezzo, il base di Do You Really Want to Hurt Me dai Culture Club, però la rima nominato What You Wanna Do, e forse Boy George, ascoltando questo, è stato ispirato a rispondere con la sua dichiarazione questa settimana, che vuole scrivere un libro da cucina. Comunque, notizie su Boy George lì, e prima avete ascoltato Do You Really Want to Hurt Me from 1982 and Culture Club. Let's go. grande, grande Disco Inferno, e questo sono dei Trumps, che è stato un grande successo per loro nel 1977, uno dei pochi successi che hanno avuto, perché è stato nel film Saturday Night Fever. Disco Inferno è piaciuto così tanto poi al grande nonna del rock Tina Turner, che nei primi anni 90 ha fatto questo. Under My Skin, il grande successo per Frank Sinatra, scritto da Cole Porter, e questo è una versione rifatta del 1993 per un album di duets che ha fatto Frank Sinatra con vari artisti del mondo dello spettacolo. È proprio un grande onore per Bono Vox essere coinvolto in quello, e loro non hanno registrato insieme nello stesso studio, hanno registrato in studio diversi. Comunque, nonostante questo, Bono rimane un amico di Frank Sinatra. Ragazzi, you're listening to Remake di questa domenica pomeriggio. Se voi avete un remix o un suggerimento da spedirmi, il mio indirizzo email è fergal@kisskissnetwork.it, e se avete un CD, un remix che potete fare voi, il nostro indirizzo è Kiss Kiss Network, via Scambati 61801 31, Napoli, e magari scrivete sulla busta Remake. Allora, adesso vediamo che ore sono. Sono le 17, ore del notiziario. Remake. Like this. Just to cast away an island lost at sea. 1979, it's Message in a Bottle che ascoltiamo su Remake questa domenica pomeriggio. Hello everybody, se ci avete appena turned on the radio, my name is Fergal Kavanagh, c'è Roberto Bottone on controls, listening to the best of covers, eccetera. Allora, messaggi che sono arrivati. Ciao a Marzia, volevo sapere se usiamo le sue playlist che mi ha mandato per email. Certo che le usiamo mano a mano, pezzi a pezzi durante la settimana, durante il programma ogni settimana. E poi un messaggio che ha scritto male il mio nome, comunque volevi sentire il remake di Puff Daddy, comunque magari le mettiamo o più tardi o forse no, visto che abbiamo appena messo i Police, oppure la settimana prossima. Grazie del tuo messaggio. Don't tribute to the Police, here's Tomatoes Factory. remake. And toss it, let toss. A remake. Yeah. A remake. Yeah. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Remake. And toss it, let toss. This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. When all is ready, I throw this switch. Pump up the volume, pump up the volume. Hold that bass. Would you mind saying that again? You make me feel so good. We interrupt this broadcast to bring you a special news bulletin from our on-the-spot passport. Oh my God. The music just turns me on. Of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I get deep up, still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence, thinking how could I get some dead presidents. I need money. I used to be a stick up kid, so I think of all the devious things I did. I used to roll up, roll up, roll up. I used to roll up, roll up. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. Still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5. If I strive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street, whistling this. Feeling that placeless man do I miss. Il classico dagli anni 90, il grande grande Eric B insieme a Rakim with Paid in Full, un pezzo che usa molto campioni tipo Pump Up the Volume dei Mars e anche un grande pezzo di Ofra Haza, la donna israeliana che nel 1988 aveva un hit con Imna Now. Thank you. it's true. They got a message for the action man. Details fall away. The shaking when nothing is given. Just pictures of trap girls in censorship. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with this light and it's glowing, glowing, glowing, glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. Songs are junky, strung out in heaven's high, hitting at all time low. Grande David Bowie with Ashes to Ashes, taken from his album Scary Monster and Super Creeps del 1980. E questo è stato tipo un rivisitazione a Space Oddity quando parla del Major Tom. Insomma, un sacco di cose nascoste in questo bellissimo brano. E noi un remake vogliamo farvi sentire adesso, una versione fatta da un pop diva irlandese. Ormai insomma è diventata un pop diva. Samantha Mumba, lei ha fatto in modo suo, ha preso il base, un po' il melodia, però un po' di originalità pure. It's Body to Body. Yeah. Remake. Like this. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time to wallow in the mind. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Grande, grande, The Doors with Light My Fire, taken from the debut album. Allora stiamo facendo un bel medley adesso e ascoltiamo un versione fatto da Black Legend, tutto ballato. The time to hesitate. There's no time to wallow on the high. Try no each other. And I will not become a son of fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby. Grande, grande, that's Light My Fire. Here come UB40, you heard Massive Attack, and UB40 now. Try to set the night on fire. grande alla grande, that's the Doors che hanno iniziato il nostro medley e porta alla conclusione pure, ed è giusto così, perché anche se è un classico è sempre una canzone che io almeno riferisco ai Doors, Light My Fire del 1967, il loro primo album. Poi abbiamo ascoltato Black Legend, una versione dance del 2000, e Massive Attack dell'album Protection 1994. Subito dopo c'erano UB40 con la loro versione del Light My Fire from last year, e Shirley Bassey ci ha portato la conclusione prima di riascoltare i Doors. Un gran bel medley che ci ha fatto i nostri tecnici, bravi ragazzi, e ci sarà un'altra la settimana prossima. Ok, remake non è solo versione nuova ma anche remix, e perciò mettiamo la versione nuova di Under Pressure dai Queen and David Bowie insieme. Remake. Remake. Let me, let it be you need to share. the door to my bare soul. You're the light in my deepest, darkest night. I'm a savior when I fall. When I fall, made of things that I get for you. When you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Già ascoltato Robbie Williams questo pomeriggio con il suo Freedom, e mentre lui stava avendo successo con quel pezzo, i Take That stavano avendo un grande successo con questo, e sui video e tutte le cose promozionali non c'era Robbie Williams, però il suo voce è sul disco. It's Take That with How Deep Is Your Love del 96, e prima di quello abbiamo ascoltato l'originale quasi tale quale i Bee Gees con Saturday Night Fever 1977. Pubblicità e torniamo con un classico del rock irlandese. Remake. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Remake. citare The Edge, classico proprio, taken from the album War, sono gli U2 con New Year's Day del 1983, e loro sono proprio un gruppo storico della musica rock, e perciò quando le gente le chiedono di fare i campioni, loro magari le dovrebbero dare. Comunque, per la prima volta nella storia della musica l'hanno fatto, non l'hanno fatto in precedenza, nel 2001, cioè proprio adesso è appena uscito questo disco, e sono i Music vs U2, e non è New Year's Day ma New Year's Dub. Yo party people, we're gonna keep this thing rocking. You know, just like way back when. Yo party people. Yeah. 1985, it's Prince with Pop Life, Prince and the Revolution insieme sull'album Around the World in a Day. Bellissimo questo pezzo. You're listening to Remake almeno per un'altra diecina di minuti e stiamo facendo sentire vecchi brani rifatti in modo moderni, e quindi saltiamo dal 1985 al 2000 e ascoltiamo Miss Mukupa, ecco, and sua versione di Club 2000 che riprende dopo Pop Life. With your girl, did she want diamonds when you gave her pearls, right? Did you go slow when she wanted a twirl? She's hanging out at fancy bars, wearing fancy cars, so she needs some pop so she can get high like Mars. Cause all I can see, she may be her name. What? Wanna be with stars and get celebrity. She's fast by the car, but she don't hear what they say. She's got a mind and the money and the money. No, but then she's the talk of the town. No one can bring her down. She doesn't wanna drown, she got to get around, right? I guess we're all searching for the sun in our life. Some wanna do it straight, some wanna do it right. We're all looking for that cream on top, cause you know life and funk it was bad, bad pop. Come on. Pop, life, everybody needs a thrill. Pop, life, we all got a space to fill. Pop, life, everybody can be on top. That's right, your life it ain't real funky unless it's got that pop thing. Come on, Miss Mukupa, the party trooper. No wine masters like to mingle glasses. Stick to sugar daddies like molasses. Walk the floor when it comes to different pleasures. Flash that gold, that's a spank, got two treasures. Ghosted by the cash flow like aqua. Money hungry hoes know what to do, rock ya. Using the dough for the nose is where the money goes. Hanging out with bikers, cause that's where eyes blows. It shows that even though we're petty and we're needy, we all got the genes of the greed, right. Like I got my weed on to get my swerve on so I can turn on the next on, dig it. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later movie too, and then home. Oh, such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. Such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to just watch the sun. You're going to read just watch the sun. Siamo tutti in studio qua facendo l'indovinello, ma chi è che fa questo voce, questo parte qua di Perfect Day? Allora la risposta è che sono tanti artisti che nel 1997 si sono messi insieme per beneficenza per il BBC e hanno ripreso il brano di Lou Reed, che è grande Perfect Day. Abbiamo ascoltato il voce di Lou Reed, Bono, Morcheeba, David Bowie, Elton John, Boyzone, un sacco di persone su questo disco. Proprio bello e un bel modo di concludere questa edizione di Remake. E ragazzi, è l'ora di andare. Allora, la settimana prossima alle ore 16, sempre appuntamento per Remake, la best of the old music rifatto in chiave moderno. E adesso è il time to say goodbye. Appuntamento alle 21 domani. Grazie a Roberto Bottoni on controls. Bye bye.